Wolken Himmels liegt a Schwelbe, freit sich, dreht sich hin und zurück. Lacht der Wind in Chor, lacht und lacht und lacht, lacht der robe Tage ganze und a halbe Nacht. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna. Allora, buongiorno, buongiorno da Caterina Cardona. Riprende oggi giovedì 28 gennaio Noi, Voi, Loro, Donna. Noi, Voi, Loro, Donna è una trasmissione curata in questo periodo fino a domani, poi domani scade il mio periodo RAI, curata da me e da Alicia Conte, con in redazione Cristina Burani. È una trasmissione con un numero di telefono che do fin da adesso, 679-6666, prefisso 06 per chi chiama da fuori Roma, 679-6666. Ricordo, chi ci segue lo sa, che Noi Voler Donna ha una rubrica del telefono nell'ultimo quarto d'ora, dalle 11:15, 11:20 fino appunto alle 11, in cui chi ci ascolta, ascoltatori e ascoltatrici, possono chiamare e intervenire sul tema del giorno, sul tema della mattina, della settimana, oppure anche per lanciare delle nuove proposte, per parlare con gli altri ascoltatori e ascoltatrici, per discutere insieme di un tema nuovo. Ecco, il tema della settimana. Con oggi concludiamo, se vogliamo, ma anche la parola concludere sa di un definitivo che non era il tono della nostra trasmissione. Domani, appunto, il venerdì, è una giornata che noi dedichiamo a dei fatti di attualità oppure a dei temi che vogliamo trattare più rapidamente, e in questo caso domani Cristina Burani con una ginecologa riaprirà un dibattito sul tema della contraccezione. Oggi così, è l'ultima trasmissione di questa serie che abbiamo intitolato Vivere in solitudine. Abbiamo detto che è un tema enorme, un tema, se vogliamo, è un universale, tocca a tutti, le donne in particolar modo. Ma abbiamo visto un po' come, abbiamo avuto il primo giorno una testimonianza di una donna anziana, molto anziana, che vive da sola, che ha scelto di vivere da sola, il giorno dopo quello di una ragazza, che è un fenomeno sempre più frequente, quello dei giovani che scelgono di andare a vivere da sola, cioè sempre più frequente sono questi nuclei familiari composti da una persona sola. Ieri, se vogliamo, ci siamo avvicinati di più a quello che sarà anche il tema di oggi, cioè un vivere in solitudine in mezzo alla gente, se vogliamo. Per esempio, ieri era in un paese piccolo dove tutti ti conoscono, dove tutti ti controllano, poi alla fine veniva fuori. E un vivere in solitudine, un essere più o meno isolato, emarginato, per un fatto, se vogliamo, molto banale, come quello di molto banale oramai, cioè molto entrato nell'uso, nel costume, come quello per esempio per una ragazza di separarsi, di scegliere di troncare il proprio matrimonio e di tornare addirittura a vivere dalla madre, cioè quindi una cosa anche molto classica, l'abbiamo detto ieri, e come questo possa venir preso in un paese piccolo, in una società ristretta, come un atto eversivo e quindi ostacolato e quindi criticato e quindi come ti si possa rendere la vita difficile. Ecco, mi pare che il tema di oggi per alcuni motivi rientra nel nostro tema della settimana e per altri, e vedremo perché, se ne disgiunge. Il tema di oggi è quello dell'omosessualità femminile. Io avevo pensato, proprio per finire questa serie, di andare a intervistare, di far venire qui qualche ragazza che avesse scelto l'omosessualità come decisamente e che vedesse, che si confrontasse con che cosa vuol dire la solitudine in cui ti emargina una società che ti ghettizza, Oggi forse io mi sono resa conto che l'ultimo grande tabù, vero tabù della nostra società è quello dell'omosessualità femminile. Me ne sono resa conto parlando con la gente, me ne sono resa conto parlando anche con appunto delle persone, delle ragazze omosessuali che hanno fatto questa scelta, se vogliamo con serenità, se vogliamo meditandola, se vogliamo anche molto avendola molto così maturata dentro di sé. Poi il rapporto fra solitudine e omosessualità, parlando con, in special modo con una ragazza che oggi è qui con noi, che io saluto, si è venuto via via definendo meglio, e penso che sia proprio con lei che oggi ne vogliamo parlare. Questa ragazza che è qui con me vuole mantenere l'anonimato, e forse è la prima domanda che ti posso fare, appunto, perché non dici il tuo nome? Ma dico, non dico il mio nome innanzitutto per una cautela, perché io non credo che il tabù dell'omosessualità sia il più feroce, il più forte, però indubitabilmente c'è una forma di repressione nei confronti soprattutto della sessualità lesbica. Dopo chiarirò perché io preferisco questo termine lesbico e non omosessuale. Però non dico il nome non solo per evitare questa repressione, ma soprattutto perché poi in effetti io credo che questa condizione di anonimato corrisponda a un dato reale nella vita di molte donne lesbiche come me, che magari vivono dei rapporti sociali gratificanti per molti altri aspetti, ma che non esprimono, diciamo, questa loro scelta sessuale, questa loro, in fondo, identità sociale di lesbica. Non so, è come se volessi indicare che io posso essere chiunque, posso essere la vicina di casa, la professoressa, il medico, cioè in realtà mi sembra più di cogliere questo aspetto, la madre dei figli e del compagno di scuola, ecco. Senti, ecco, forse il primo punto da affrontare, io ho usato il termine omosessualità, tu hai subito preferito precisare lesbica. Perché questa definizione, questa differenza, cosa indica? Vabbè, diciamo che la differenza fra omosessualità e lesbismo è stata posta proprio dai primi gruppi lesbici nati all'interno o anche all'esterno del femminismo, ma comunque sempre su un'analisi femminista, per distinguere proprio la sessualità maschile, omosessuale, da quella della donna che ama un'altra donna, che definiamo appunto lesbica. Questo perché chiaramente tutte le analisi sulla sessualità femminile è derivato da molti anni, dopo 15 anni o 12 anni di femminismo, è chiaro che la sessualità della donna è profondamente differente da quella dell'uomo, cioè è per porre questa diversità, diciamo, dall'omosessualità. Senti, quando ci siamo incontrate la prima volta, io ti ho detto: ma io vorrei fare una trasmissione sulla solitudine, anche sull'emarginazione, e ci terrei a fare una trasmissione sull'omosessualità femminile in quanto luogo di solitudine, cioè sei sola perché la società ti emargina. E tu immediatamente hai detto: no, io non mi riconosco, io non sono sola. Ecco, questa è stata forse la prima cosa che mi hai detto. Forse da questo potremmo partire. Certo. Vabbè, io personalmente penso che il tema della solitudine o anche dell'isolamento culturale non mi appartiene, ma perché io ho trovato sia prima nel femminismo che poi anche in questo, diciamo, incontro con altre donne lesbiche sullo specifico del lesbismo, la possibilità di esprimere il mio pensiero, la mia identità totale. E se è vero che un tipo di società mi può non accettare, è vero che comunque io mi pongo e ho il coraggio e ho la possibilità soprattutto di porre questa mia espressività totale. In più vorrei dire che la solitudine credo che sia un atteggiamento che riguarda l'intera persona. Certo. Che riguarda, che ne so, una separazione anche dagli altri nel mondo del lavoro, nel mondo della vita quotidiana. Io non ho personalmente questa separazione. La solitudine riguarda anche un fatto di sentirsi emarginati. Sì, io devo dire, la mia, diciamo, biografia non sente il peso dell'emarginazione. Discriminati sì, io sono una militante femminista e adesso anche una militante del lesbismo femminista e quindi sento sì la contraddizione del vivere lesbica in una società eterosessuale. Sento che ci sono forme repressive che si esprimono anche con la tolleranza, però non mi sento emarginata, non mi sento ghettizzata, perché io quando sto con le altre donne non mi sento in un ghetto. Cioè è una scelta, diciamo, privilegiante per me. Non è... Ecco, forse il discorso appunto che tu, che abbiamo fatto insieme quando ci siamo incontrate è stato questo. Tu hai detto, ma in fondo io penso che sia molto più sola mia madre, per esempio, certo, che ha una vita, se vogliamo, fra virgolette, normale, di quanto non possa esserlo io. Certo, dico mia madre per dire, che ne so, una condizione di donna che sta in una famiglia che viene pensata come la donna non sola. Io credo che appunto ci sia una profonda disonestà nel collegare il discorso della solitudine a quello del lesbismo nei confronti della donna. In realtà la situazione familiare, in molti casi in cui una donna non riesce a esprimere se stessa nel rapporto con le persone che anche affettivamente le stanno intorno, ma che poi in realtà non la vedono per quello che è, secondo me è una condizione di reale effettiva solitudine, insomma. Cioè è molto feroce, molto forte questa impossibilità di esprimersi. Però devo dire, queste analisi mi vengono proprio dalla mia militanza femminista, prima ancora che su questo specifico del lesbismo. In realtà poi il femminismo è nato quando le donne si sono messe a parlare di sé insieme, e tuttora vive, perché questo discorso iniziato in realtà non si è interrotto, mai, non si sta interrompendo, anche se si vanno scoprendo degli specifici su cui poi parlare, delle contraddizioni specifiche su cui parlare. Una di queste che abbiamo scoperto, devo dire io e anche il mio collettivo che si chiama Vivere Lesbica, è il discorso del nostro lesbismo. Noi abbiamo fatto un convegno a Roma il 26, 27, 28 di dicembre, un convegno molto interessante perché è avvenuto nei luoghi del femminismo, cioè alla Casa della Donna di Via del Governo Vecchio di Roma, e con una tematica appunto di donne che parlavano di sé, che è profondamente secondo me un discorso femminista, e da questo nostro discorso insieme sono venute fuori molte, diciamo, molti tentativi di conoscerci meglio, cioè di creare una cultura nostra fatta da noi, partendo dalla presa di coscienza, di anche fare una rivendicazione nel sociale, cioè una sorta di richiesta di diritti di vivibilità. Ecco, forse la domanda che viene più spontanea è proprio questa: perché una donna lesbica sente il bisogno di definirsi in quanto tale di fronte alla società, cioè di sottolineare e quindi poi di politicizzare la sua lesbicità? Il suo lesbismo? La lesbicità. No, in realtà io credo che è una grossa presa di posizione che continua questa tentativo di liberazione e di espressione della sessualità femminile. Dico, vivere il proprio lesbismo non è difficile, soprattutto appunto laddove esistano comunque dei rapporti tra donne, però poi è difficile viverlo in un sociale che è patriarcale ed eterosessuale, perché l'eterosessualità è lo strumento Ecco, scusa se ti interrompo, tu dici vivere il proprio lesbismo non è difficile. Io non credo che sia non difficile, credo che invece sia molto difficile. Forse è anche il motivo che mi ha spinto a fare questa trasmissione. Cioè, io credo che ci siano una quantità di donne che forse appunto abbandonano la provincia per venire in città perché è meno difficile vivere in una città grande. Certo, è più facile aggregarsi. È più facile aggregarsi, è più facile confondersi. Io appunto non so quante donne che si sono scoperte lesbiche poi hanno il coraggio, la sincerità di dirselo a se stesse prima di tutto, di viversela, di tirarsi fuori, di fare questa scelta come prioritaria, quindi per esempio appunto fare lo stacco dal proprio paese d'origine e venire, cambiare città per viverlo più tranquillamente. Ma questa in realtà invece è una cosa che secondo me accade spesso. La cosa che accade meno è questo portare la parola lesbica nel sociale. Perché? Perché chiaramente, probabilmente in molti casi, effettivamente è difficile, ma quando io dico vivere il lesbismo non è difficile, direi anzi è bello per chi ha questo tipo di sessualità, e dico perché? Perché in fondo vivere è un fatto totale, non è solo il rapporto col sociale, è anche il rapporto col proprio piacere, con la propria espressione, quindi per questo dico che non è difficile. Poi che in un sociale in cui sono vigenti determinati comportamenti, certo che è più difficile, ma è più difficile soltanto quando tu fai queste operazione di interrompere, di volontà di interruzione di certi comportamenti definiti e di volontà di mutamento, di cambiamento. E in questo la società ti respinge perché poi si difende, si conserva. Ecco, io credo che per esempio una eventuale futura battaglia di questo movimento lesbico-femminista sul discorso di una possibilità della donna lesbica di vivere nel sociale, cioè riconosciuta, non depressa, non taglieggiata, non ricattata, potrà portare uno spostamento nel sistema totale dei rapporti, cioè anche probabilmente all'interno della cosiddetta contraddizione uomo-donna, nel senso che comunque si crea o si definisce un altro tipo di comportamento. È per questo che poi in fondo io non è che mi sento emarginata e repressa. Io ho imparato e so che emarginate e represse sono in una società, ripeto, patriarcale ed eterosessuale le donne. Ora dico io in questo momento sto lottando contro il sistema o contro la pratica eterosessuale di questa società che vedendomi come donna mi identifica subito e sempre come eterosessuale, cioè non mi dà scampo, io invece mi voglio costruire lo scampo che in realtà già vivo e che dico vivo anche felicemente perché mi permette questa espressione della mia sessualità e della mia affettività. Senti, io prima ho avuto un lapsus, ho detto lesbicità, e tu mi hai subito corretto dicendo lesbismo, giustamente. Io ho fatto così una specie di assonanza con quello che mi pare il problema di fondo fra lesbismo e identità, cioè c'è in questo movimento che è nato e che adesso vediamo, cioè la ricerca di un'identità. Di un'identità che oggi mi pare passi per il politico e poi tu mi potrai raccontare come, cioè addirittura da questo convegno che è stato a Roma nei giorni fra Natale e Capodanno è uscita fuori se non altro una proposta di diritti del mondo lesbico, però mi pare che la cosa più, cioè quello che forse può essere anche il senso della nostra trasmissione è proprio di tirare fuori questa identità lesbica, questo essere un omosessuale, viverlo come una normalità, come un dato di normalità, cioè come qualche cosa che ha non solo il diritto, ma che c'è. Se vogliamo tirare fuori dei dati, forse quando si vedono i dati si rimane più colpiti, cioè qualche cosa che tu vedi più in faccia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli omosessuali in Italia sono 3 milioni e le lesbiche sono 2 milioni, le sole donne. Quindi è veramente una grande parte di un paese che in qualche modo cerca una sua identità. Certo, io devo dire, dei dati ufficiali ho imparato a fidarmi poco, nel senso che poi so benissimo che probabilmente saremo forse di più di 2 milioni, secondo me, perché non sono documentabili i vissuti lesbici delle donne, non sono molto facilmente numerabili. Comunque, senz'altro è un dato di fondo. Rispetto al discorso dell'identità, bisogna che riparlo di questo convegno di donne lesbiche. Era stato indetto da 3 gruppi, uno sulla sessualità, uno sulle paure e il modo di superarle, che poi è stato, diciamo, il gruppo che ha proposto il discorso dei diritti alla vivibilità, e il terzo gruppo era questo dell'identità, che in realtà, secondo me, si è collocato non solo come ricerca di una identità sociale, perché poi in fondo quello era il secondo gruppo della richiesta dei diritti, no? Dei diritti di vivibilità, ma anche e soprattutto come diciamo la ricerca di una, come ho detto prima, di una cultura autonoma di donna lesbica. Cioè, in realtà, l'educazione a cui tutte le donne italiane, o forse tutte le donne mondiali, sono sottoposte, è un'educazione eterosessuale. Cioè, una donna lesbica, come diceva il testo di una compagna, si definisce solo al negativo. Ecco, uscire da questa definizione in negativo, cioè uscire dalla definizione di non eterosessuale e riprendersi il proprio discorso di identità lesbica è indubitabilmente un'operazione di presa di coscienza e di presa di parola all'interno del sistema culturale, operazione che mi sembra necessaria, addirittura mi sembra che vada accompagnata alla richiesta, sia il sottofondo fondamentale di questa, della richiesta poi politica che tu fai alle istituzioni, insomma. Ecco, io la vedo così, ho dei dubbi sul fatto di sottolineare come movimento politico il fatto della propria lesbicità. Mi pare che invece quello che deve passare è un dubbio su che cosa sia normale e cosa non sia normale, cioè la nostra società continua a dire questo è normale e questo non è normale. Ecco, io non so che cos'è la normalità e questo mi pare il dato più importante. Poi sul fatto di farne un movimento politico, su questo ho dei dubbi, non lo so, forse noi siamo adesso alla fine di questa, questa prima... È un po' cattiva come cosa, nel senso che poi in realtà è vero che un movimento è politico nel momento in cui fa delle richieste precise, dirette all'istituzione che regge tutto, ecco, il vivere politico. Questo ti volevo chiedere, cioè adesso siamo un po' alla fine di questa nostra parte, allora... Voi vi siete definite, avete scelto, mi pare che anche tu lo hai fatto, di definirvi politicamente e di fare proprio una piattaforma di richieste, se vogliamo. No, questo ancora devo dire non è stato deciso, è stato posto alla discussione. Allora, in questo senso, come dire, tu hai da qualche parte ragione, perché secondo me la cosa più importante di questo incontro, che non è stato il primo, che segue a tutto un agire di gruppi lesbici dentro e fuori del femminismo, nel senso di case editrici lesbiche, di altri incontri fatti negli anni passati. Cioè, la cosa più importante di questo nostro incontro è stato, a mio parere, proprio il fatto di cominciare questa operazione di corretta informazione sulla condizione di noi donne lesbiche, sulla condizione di come ci portiamo avanti questa contraddizione, devo dire contraddizione soltanto per il fatto che viviamo all'interno di un sistema così com'è, cioè io non sono in contraddizione con il mio lesbismo, sono in contraddizione all'interno della società che mi impedisce in vari modi di essere lesbica e soprattutto mi impedisce di dirmelo o di dirlo che sono lesbica. Ecco, questo è il discorso della contraddizione. Il rapporto fra femminismo e lesbismo? Io devo dire che mi sembra di assoluta contiguità e io stessa, ti ho detto, sono femminista e lesbica insieme, cioè non nego tutto il mio passato femminista, comunque non nego neanche che all'interno, diciamo, degli obiettivi che il movimento femminista e il movimento delle donne si è dato nei vari anni, dico la lotta per l'aborto, la lotta contro la violenza sessuale, io mi sono detta solo in parte, cioè io ho portato avanti in quegli anni il discorso sulla mia sessualità, ma non la lotta o diciamo non l'obiettivo politico che mi agevolava nella mia sessualità. Per questo adesso c'è il discorso dello specifico sul lesbismo o di donne lesbiche. Lo specifico di donne lesbiche secondo me si colloca comunque all'interno di una ricerca più generale dell'identità dell'identità della donna e del mutamento, della diversità che possiamo noi donne e donne lesbiche introdurre in un sistema di rapporti che è invece adesso soltanto segnato da questa dal modo maschile di viverli, cioè quindi con tutta anche un isolamento e una solitudine che le donne hanno se accettano senza introdursi, se accettano questo sistema di disparità che l'uomo gli pone. Ecco, io, tu sai, ne abbiamo parlato altre volte, sono per una, se vuoi, per una rifondazione di una cultura che veda uomini e donne insieme, cioè di una cultura diversa che rifondi proprio le sue basi, che si rinnovi totalmente, ma che veda, in questo senso non sono per il separatismo, sono per una, appunto, fatto come una cultura comune. Ma dunque io invece essendo una femminista del movimento femminista romano di via Pompeo Magno, ho sempre creduto che la nostra lotta di donne dovesse essere per la ricerca di un'autonomia, intendendo per essa anche autonomia culturale e politica, e per il separatismo come modo diverso di conoscere la realtà. C'è un gran cartello al collettivo di via Pompeo Magno in cui si dice: il separatismo è il nostro modo di vedere il mondo. Ecco, in questo senso, secondo me, la preoccupazione di dire noi emarginiamo i maschi, eccetera, eccetera, non esiste, perché in realtà rispetto a questa nostra possibilità di dire il mondo siamo state sempre represse. O comunque 10 anni in cui più forte si è fatta la lotta per riprenderci la possibilità di dire la nostra parola. Questo secondo me è il discorso sul separatismo, è il discorso della modificazione all'interno dei rapporti che vigono in questa società, dove c'è pochissimo scambio, dove c'è in fondo secondo me molta necrofilia e poca possibilità di tutti di esprimersi. Secondo me il problema del maschio non esiste, cioè è un problema suo, nella misura in cui io mi permetto di far vivere questa diversità di visione del mondo, e non è una battaglia semplice. Senti, io non sono d'accordo su questo fatto, appunto, che è un problema suo, penso che sia un problema di tutti, però mi pare che apriamo un discorso, se vuoi, sì, troppo specifico di femminismo, e forse la cosa più interessante di una trasmissione come quella di oggi è proprio quella invece di dialogare, di parlare con gli ascoltatori, con le ascoltatrici, cioè noi abbiamo fatto, mi sembra, in questo senso il convegno che voi avete fatto a San Natale Capodanno è stato molto importante, è stato come una smitizzazione e, se vogliamo, un far entrare questa parola che tu dici no, ma io la sento come un tabù della nostra società, come un dato di normalità, come una parola non solo accettabile ma su cui si può riflettere, come una realtà non solo accettabile ma come uno spunto di riflessione per tutti quanti. E questo penso sia d'accordo anche tu, deve essere un pochino il senso di questa nostra trasmissione. Sì. Io quindi farei una cosa, cioè facciamo un intervallo musicale, la nostra solita rubrica musicale, vi ridò il nostro numero di telefono che è 679-6666, prefisso 06, 679-6666, prefisso 06, e poi forse se abbiamo tempo possiamo anche riprendere dei temi che forse non sono in questa prima parte, non si sono sciolti bene. Allora, la nostra rubrica musicale. L'abbiamo dedicata oggi a John Baez. John Baez è così, per me è tutta un'epoca della mia vita e penso per tutte le persone che hanno oggi fra i 30 e i 40 anni. Cantante, chitarrista, è nata vicino a New York nel 1941. Vi proponiamo una canzone famosissima, credo che su John Baez non c'è nulla da dire, e questa canzone è All My Trials, tutte le mie tribolazioni. Sono belle le parole che di cui vi leggo la traduzione rapidamente, è una ninna nanna. Fai la nanna bambina, non piangere, lo sai che la tua mamma è nata per morire, tutte le mie tribolazioni. Signore, presto termineranno. Troppo tardi, fratelli miei, troppo tardi, ma non importa, tutte le mie tribolazioni, Signore, presto finiranno. Il fiume Giordano è freddo e pieno di mota. Beh, raggela il corpo, ma non l'anima, tutte le mie tribolazioni, Signore, presto finiranno. Ho un piccolo libro con tre pagine, in ogni pagina c'è scritto libertà, tutte le mie tribolazioni, eccetera, questo è il motivo che ritorna. Se vivere fosse una cosa che si può comprare col denaro, lo sapete bene che i ricchi vivrebbero, i poveri morirebbero, tutte le mie tribolazioni, Signore, e così via. La canzone All My Trials è uno spiritual Nila Nanna che ha avuto origine nel sud schiavistico degli Stati Uniti prima dell'emancipazione e poi si è spostata nell'India occidentale, nei Caraibi, ed è stata riscoperta nelle Bahamas, quindi è una Nila Nanna con una lunga storia alle sue spalle che John Baez ha recuperato e ha riproposto già molte volte, che oggi a mia volta vi ripropongo. Hush little baby, don't you cry, you know your mama was born to die. All my trials, Lord, soon be over. River of Jordan is muddy and chills the body, but not the soul. All my trials, Lord, soon be over. I've got a little book with pages three, and every page spells liberty. Were things that money could buy? my trials alone. Soon be over. There grows a tree in paradise, and the pilgrims call it the tree of love. Allora, questa era John Baez, All My Trials. Io penso che noi possiamo ridare il suo numero di telefono, che è 679-6666, prefisso 06 per chi chiama da fuori Roma, e so che abbiamo già delle telefonate in linea, quindi possiamo già cominciare a prenderle. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io, diciamo, posso parlare dalla mia condizione di lesbica. Sì. E allora sono interessata a quanto ha detto la signorina. È preciso che per me, come giustamente diceva anche lei, non è una situazione non dolorosa, non difficile. Per me la è moltissimo, perché vivo in un paesino, avete visto che non vi ho dato neanche il nome, vivo in un paesino e questa condizione mi ha sempre addolorata. Ho vissuto due storie bellissime, ma che fatica. D'ora ho 50 anni, sono sola e diciamo che mi rende... tutta la situazione è difficilissima, perché quasi i parenti attendono ancora che io mi sposi. Ho capito. Quindi in qualche modo è forse quello che dicevamo, che dicevo sì, io. Sì, domani. Sì, l'ho sintetizzato al massimo, ma la cosa è così, ecco. Avete capito benissimo, io penso, anche sì. Quello che non dico. Certo, no, ma... Personalmente penso che, cioè mi sembrava di averlo detto, che la contraddizione è proprio vivere questo lesbismo. L'imperialismo della coscienza maschile esiste. Oh, bravo. Mio fratello mi dice ancora di sposarmi perché, malgrado tutto, tra virgolette, sei una bella donna. A me non interessa, perché io prostituirei la mia anima. Io non ho nulla da dividere, mi rispetto, ma io non ho nulla, nella sessualità è ben inteso, non ho nulla da dividere con l'uomo. Ecco. Ecco, ma è per questo che probabilmente questo movimento nascente, questi incontri, questi tentativi di parlarne prima fra noi e poi parlarne nel sociale ci sono sembrati e ci sembrano utili, cioè la lotta su questo... Tirate fuori, raccogliete quello che c'è, perché io non mi sarei mai sognato di fare una telefonata. Ma viene anche e tu. Parlarne, è certo, vero? Certo. È vero? Ecco, e ora che faccio? Ti metti in contatto col collettivo Vivere Lesbica. Sì. Prego? Dunque, io credo che non ci sia niente da fare, cioè forse c'è da vivere questa situazione difficile. È dolorosissima, però. Appunto, difficile. Sì, ma... E con, forse con maggiore serenità di non quanto... Non parliamo di Freud possibile. Con il complesso di castrazione e tutte quelle cose lì che non condivido. Vabbè, ma quelle... Per carità. L'avevamo già contestate col femminismo e non convincono più molte donne. Io non vivo nella mia trincea, lo vivo sola, perché io a 20 anni vivevo la mia storia ed ero già così. Per cui, vedete, cioè, dopo 30 anni io ne posso parlare. Ecco, è vero. Io ho un'impressione, forse sbagliata, ecco, la dico veramente con molta sincerità. Cioè, non vorrei, non lo so, se non c'è quasi... la voce gentilmente. Sì, certo, se non c'è quasi un gusto dell'emarginazione, cioè... C'è questa cosa, c'è questo aspetto repressivo in una società eterosessuale, per cui una donna si deve per forza sposare, mentre una che sceglie o comunque che si sente diversa da questa sessualità dominante viene costretta a vivere o è stata costretta, adesso dico noi agiamo anche politicamente proprio per a poco, devo dire, lentamente con i famosi tempi delle donne, superare situazioni di questo tipo. Mi permetta, rispondo alla signorina che dice ecco, così. Io no, volevo spiegarlo. Io ho avuto contatti, ho avuto avvicinamenti, ma proprio per dar prova a me stessa, al mio io critico, di vedere com'ero. Quindi non alzo nessuna bandiera, è sofferenza doppia di una che accetta passivamente o meno il maschio. No, questa è una sofferenza, veramente, e non attendo ad avere 50 anni per dire questo, l'ho vissuto giorno per giorno, frantumato, rifacendomi, eccetera, capisce? Sì, certo, perfettamente. Io sono no, questa... c'è nulla da sbandierare, questa è sofferenza in questa società. Come non c'è nulla da sbandierare? No, lo dice la gente che forse lo vogliono vivere con un po' di... No, io no, non sono stata chiara, cioè, quando lei ha detto, e adesso che cosa facciamo? Beh, sì, io ho detto che è come battuto, ma essendo una persona anche di temperamento, diciamo, piuttosto riservato, non è che io mi butto fuori, che esca dalla casa adesso e venga lì da voi. Sì. No, senz'altro. Quindi l'ho detto come battuta, ecco. Sì, ma anch'io infatti l'ho detto come battuta e forse per stare a significare quello che in qualche modo forse sarebbe il mio desiderio, cioè come di uno sciogliersi di un grosso nodo della nostra società e di un'accettazione, se vogliamo, di una normalità al di fuori di quelle che sono le norme della gente che pensa normalità? Ecco, quello che abbiamo detto prima, cioè ma al di fuori che cos'è la normalità? Appunto. Quale filo lega la normalità dalla non normalità? Ecco, se lei mi lascia finire di parlare, è proprio questo, cioè il fatto che la gente pensa di sapere cosa sia la normalità, invece appunto, come dicevamo prima, di lanciare questo dubbio che una normalità non esiste, non c'è una possibilità di una definizione di una normalità. No, la normalità è il diritto del più forte, nel senso che la regola eterosessuale che serve al patriarcato per mantenere. Ma non è normalità, mi scusi. Ah no, infatti noi dicevamo una volta che era una perversione sadomasochista, però volevo dire, questo lo diceva addirittura il femminismo. Sì. Dunque, io penso che ci sono delle altre telefonate, forse appunto la trasmissione di oggi può avere la funzione anche di far parlare più persone, quindi ringrazio questa telefonata che abbiamo avuto e credo che ce ne sia un'altra con cui già siamo collegati. Pronto? Buongiorno, mi chiamo Lucia e telefono da Roma. Come prima cosa vorrei dire che sono una studentessa fuori sede e vengo da un paesino del sud, proprio per rispondere alla telefonata che ho sentito prima. E vorrei dire che in un paese del sud è difficile vivere anche l'eterosessualità, non soltanto l'omosessualità o il lesbismo, come ha detto l'altra amica. Non sono assolutamente d'accordo con quanto sta dicendo l'amica lesbica e sono d'accordo con te, Licia. Cioè, io sono Caterina. Perché loro, l'amica prima, facendo questo tipo di discorso, sta facendo lo stesso discorso che fanno i maschi, gli omosessuali maschi, ghettizzandosi sempre più e quasi prendendo superbia da questa loro diversità, tra virgolette naturalmente, perché a questo punto non si sa che cosa sia la normalità, come avete detto prima, e di questo sono assolutamente d'accordo. Non è vero, la normalità c'è ed è quella che reprime, è questa eterosessualità, scusa se te lo dico, vissuta in vari modi, più o meno repressa, cavoli, dico basta veramente avere sfogliato due giornali nel corso degli ultimi 10 anni per aver capito come poi in realtà questa normalità che era data da un certo modo di vivere il rapporto uomo-donna sia stata modificata dalla lotta delle donne. Adesso c'è un altro tipo di espressione che noi andiamo cercando. Io non sono assolutamente d'accordo con te, non mi sembra di avere prevaricato nessuno, se ho tentato soltanto di fare un minimo di corretta informazione sulla condizione della donna lesbica. Se io mi vivo bene nei miei rapporti, non è che io vado a prevaricare gli eterosessuali. Ti posso dire che ho rapporti felici o infelici, però che me li vivo bene per quello che concerne il rapporto, e che non ho voglia di essere eterosessuale, perché non mi esprimo. Ho voglia di essere lesbica, guarda. A me che non me ne frega. Appunto, allora neanche a me me ne frega del tuo discorso, anche perché il rapporto sia tra lesbiche che tra rapporto omosessuale, che rapporto eterosessuale, vanno bene o male a seconda della base sentimentale che c'è sotto. Scusa, non puoi fare il tipo di discorso che fai, perché a questo punto io mi sento offesa come donna nella mia femminilità che si esprime in una sessualità eterosessuale. Okay. Questo ti voglio dire. Però il discorso che fai non mi sembra giusto, capito? Perché a questo punto mi offendi. Ma per non offenderti io dovrei non esistere, ti rendi conto? No, tu devi esistere, Io esisto e parlo di me. E parli di te. Però devi parlare di te in un'altra maniera, non nel modo in cui parli. Io parlo di me nella maniera in cui mi sento di parlare di me. Se vuoi parlare dell'amore, dico cosa molto importante, indubitabilmente io stessa posso anche essere d'accordo con te, nel senso che i rapporti vanno bene sulla base sentimentale, sul discorso della comunicazione che riesci a realizzare. Io non ho detto, e questo me lo devi riconoscere, che i rapporti lesbici sono tutti bellissimi e i rapporti eterosessuali no. Quindi questo in realtà sinceramente non l'ho detto. Io voglio soltanto dire molto semplicemente che esiste questa mia volontà, ed è la volontà, diceva Caterina, di 2 milioni e più forse di donne italiane, di amare un'altra donna e di non essere repressa in questo. In questo io ho molte amiche eterosessuali che amo, che rispetto, con cui riesco a parlare, che non si sentono offese da me, che non mi reprimono, che non mi dicono tu ne devi parlare in senso diverso, e spero che... Io credo che Lucia... Che tu non ti senta offesa, eh? Io credo che Lucia questo volesse dire, volesse anche sottolineare un altro fatto, cioè forse anche riagganciandosi alle trasmissioni di questa settimana, che appunto c'è un dato della solitudine, della difficoltà di vivere anche la propria eterosessualità. Infatti. In un paese di provincia, cioè è forse più complesso di così, no? Sì, quindi sì. Penso che tutto sommato poi voi siate d'accordo, solamente si tratta di capirsi, certo. E di così, come dire, appunto, di sciogliere questi nodi. Voi non dovete privilegiarvi così, perché esiste... Guarda, non è che un no. Fatto di privilegio, cioè loro oggi... oggi io mi devo questo, esprimere, però se uno si esprime... Certo, però se mi esprimo io nella mia eterosessualità sono una puttana. Perché? Capito? Mi esprimo in un paese di provincia, diciamo così. Ah, sì, quindi, ma volevo questo. Dire, io in quanto io sono una femminista lesbica, in realtà io ho lottato anche per te, insieme a te, con te. Ma anche io, guarda, anche io sono femminista, capisci? Cara, anche io. Cara compagna. Ma infatti io credo che su questo discorso ci sia stato un momento... Questa forse la difficoltà, in qualche modo, appunto, viverla anche in questa trasmissione può aiutarci tutti quanti e tutte quante a capirci e a sciogliere questi nodi. Cioè, proprio anche la difficoltà per parlare, fra una donna che oggi è qui per parlare del suo lesbismo, io continuo a dire lesbicità, e invece una donna che vuole parlare della sua eterosessualità, vissuta anche questa come così nelle difficoltà che si può vivere in un paese di provincia. Quindi mi pare che anzi forse questa trasmissione può proprio aiutare a sciogliere questi nodi, a parlarci meglio, no? Io ringrazio Lucia da Roma, c'è un'altra telefonata, buongiorno, ciao. C'è un'altra telefonata, pronto? Sì? Sì, buongiorno. Buongiorno, io sono Fiorella da Montecatini. Sì. Sono molto contenta che mi sia toccato questo turno, cioè dopo la Lucia di Roma. Sì. Io volevo essere un po' dissacrante, invece mi sono un pochino arrabbiata sentire la telefonata precedente. Premetto che sono una eterosessuale soddisfatta del mio stato perché ho un rapporto molto bello con il mio partner. Sì. Premetto anche però che non ho mai chiesto la tessera sessuale di nessuna donna che ho incontrato. pur avendone incontrate tante perché faccio politica attiva. Quindi vorrei cercare con molta amicizia di fare il punto sull'aspetto negativo del lesbismo, ripeto con molta amicizia, cercare di individuarlo. Penso che non l'aspetto negativo, l'aspetto infelice del lesbismo per la lesbica è un certo complesso di colpa che ha in se stessa o di inferiorità e che fa sì che fugga dalla società che sente ostile oppure la fa reagire con aggressività e quindi ricercare la protezione di movimenti massificati e politicizzati. Io appunto vorrei invece dire alle lesbiche che in fondo devono essere prima di tutto convinte che la loro sessualità riguarda soltanto loro, quindi devono cercare di conquistare la sicurezza di se stesse, di questa affermazione, riguarda solo noi. Dopo di ciò infischiarsene bellamente di tutte le opinioni altrui e vivere serenamente. Ecco, vorrei chiedere loro però di non cercare di mascherarsi sotto altre definizioni e magari addirittura cercare di coinvolgere le donne a compiere battaglie che non possono essere le loro e che magari creano loro dei problemi psicologici o addirittura di ordine familiare. Dunque, guarda, io... Scusa, vorrei finire perché l'intervento di Lucia mi ha un pochino punta sul vivo, no? Siccome è un eterosessuale come me, ma l'ho sentita nemica e vorrei, penso più efficacemente di te, che sei invece omosessuale, rispondere, io sono lesbica. Me lo permetti? Sì, dunque, vorrei dire appunto alle donne eterosessuali che non vedo perché debbono arricciare tanto il naso di fronte al lesbismo, quando, anche con un po' di senso dell'umorismo che può essere a buon mercato, io vedrei invece nelle donne lesbiche delle amiche, visto che non saranno mai delle rivali in amore, primo. Scusa. E poi vorrei invece far notare una cosa, che una teoria che i più grandi psichiatri del mondo affermano e che io credo molto esatta, e che riguarda tutti gli uomini e le donne che aggrediscono ferocemente l'omosessualità, sia gli omosessuali pederasti come le omosessuali lesbiche. Ecco, gli psichiatri affermano che i più accaniti nell'aggredire l'omosessualità sono proprio coloro che nel profondo, certo, hanno una paura inconfessata e inconfessabile di esserlo, omosessuali. Un esempio lo è Hitler. Andiamo poi a ritroso nella storia, ne possiamo trovare migliaia di esempi di questo genere. Certo. Quindi direi che non è proprio il caso di aggredire così chi vive la propria sessualità come natura oppure come gli eventi della vita l'hanno portata ad essere. Un'altra cosa, scusatemi e poi chiudo. Sì, anche voi che non puoi parlare con me. Scusa, vorrei proprio... Mi deludi se chiudi. Ora proprio a te vorrei però chiedere una cosa. Sì, perché ecco, siamo quasi in fine trasmissione. Alle lesbiche come ai pederasti di vivere la loro situazione con dignità. Soltanto questo, perché certi esibizionismi rovinano, capisci quello che voglio dire? Certi esibizionismi, certe degenerazioni estetiche, esteriori, che poi sono non proprio dell'omosessualità, ma che sono... si vedono nell'eterosessualità, ecco, le degenerazioni dovrebbero essere eliminate. Cercate di rispettare voi stesse prima di tutto e avrete senz'altro rispetto degli altri. Questo mi sembra tutto. Senti, io vorrei ringraziare Fiorella Montecatini e dare una risposta molto breve, che siamo in fine trasmissione. Allora. No, dunque io volevo semplicemente dire che sono d'accordo con Fiorella, noi parliamo semplicemente di noi, quanto alla nostra dignità mi sembra che il fatto soltanto di parlarne molto semplicemente mi sembra che sia molto, assolutamente molto dignitoso. Se io poi nello specifico oggi ho parlato anche di sessualità maschile e della sessualità dominante è perché c'ho il femminismo dietro, che mi ha dato tutta un'analisi, e io sono anche quella donna femminista che ha fatto quell'analisi, ed è dignitosissimo per me riprendermi il mio passato e sentirlo. Ecco, se vi posso chiedere una cosa, abbiamo un'altra telefonata, questa volta di un uomo, vogliamo prenderla prima di finire la nostra trasmissione? Grazie, ringrazio molto Fiorella e vediamo un attimo se c'è quest'altra telefonata. Pronto? Pronto? No, mi dispiace. La mio, non so, Fiorella è ancora in ascolto? Pronto? No. Allora, mi dispiace, volevo prendere quest'altra telefonata e invece siamo arrivati alla fine della trasmissione e allora una volta tanto finiremo anche in tempo. Intanto stiamo provando a vedere se possiamo riprendere questa telefonata a cui linea è caduta. A me pare appunto che, non so se sei d'accordo, ma perlomeno così è stata una possibilità di parlare. C'è quest'altra telefonata, pronto? Sì, ciao, io sono eterosessuale perché all'epoca delle mie decisioni non sapevo che esistesse l'omosessualità, non so cosa avrei potuto essere se l'avessi saputo, voglio dire naturalmente se è un tipo di educazione eccetera eccetera, non ripeto tutto quello che avete detto. Mi pare che venga fuori adesso come obiezione al lesbismo tutte le obiezioni che venivano al primo femminismo, cioè non date fastidio, siate bravi, andate avanti e qualcosa otterrete. Se ho capito bene, perché ho sentito vagamente tutta la trasmissione che avete fatto, no? Mentre invece il vero discorso da parte delle compagne così compiacenti dovrebbe essere quello di sentire semplicemente, perché la sessualità è una cosa come ogni altra parte della persona che ha il diritto e il dovere di esprimersi nella maniera più completa, libera, assoluta, totale, se fossimo già maturi per un discorso sulla sessualità. Cioè, a me pare... Penso, sono d'accordo, penso che sia proprio un discorso di maturità. I rumori, allora io penso che questo sia in qualche modo anche un segnale, siamo arrivati alla fine della trasmissione, mi pare giusto finire in tempo, una volta tanto, noi speriamo sempre. Io ringrazio sia l'amica che è voluta venire qui questa mattina a parlare con noi e tutte le telefonate che ci sono state, alcune purtroppo sono cadute quindi non abbiamo potuto prendere per questo motivo, altre per mancanza di tempo. Con oggi finisce anche la mia collaborazione a Noi Volo Donna. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento, domani sarà qui Cristina Burani e quindi buongiorno da Caterina Cardona.